Il ministro di Grazia e Giustizia e il direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno commentato entrambi la notizia del pestaggio nel carcere di Sassari dicendo che è una gran brutta cosa, ma che non significava naturalmente che tutti gli agenti di polizia carceraria fossero in sé per sé dei picchiatori. Alzi la mano chi non si aspettava un commento di questo tipo. E alzi la mano chi non ha colto in quelle parole tanto ovvie da sfiorare la banalità, perché in uno stato di diritto chiunque imputato di una malazione o a titolo personale non coinvolge la categoria a cui appartiene, chi non vi ha colto un eco di quelle scuse non richieste che in 99 casi su 100 si risolvono in manifeste accuse. Fassino in particolare, con l'ingenuità di chi è nuovo del mestiere, e in effetti era in carica da non più di 3 giorni, si è abbandonato a una descrizione talmente pietistica delle condizioni di vita del personale carcerario, tutta brava gente che adempie con spirito di sacrificio un servizio duro e sgradevole cui pochissimi altri connazionali sarebbero disposti a prestarsi e per di più viene pagata pochissimo, da far capire a chiunque che, a suo avviso, quelle condizioni bastavano e avanzavano a giustificare una diffusa tendenza a menare le mani. È come se chi fa un lavoro duro e sgradevole avesse il diritto non a essere meglio pagato, ma a sfogarsi come può su chi gli capita a tiro. Ora, è inutile far notare, come altri hanno fatto, che i carcerati non sono in genere degli angioletti, ma individui pericolosi e violenti. È un'osservazione questa che, tanto per cominciare, non vale per tutti, ma che anche se lo valesse sarebbe lo stesso un'ovvietà, visto che appunto per questo in carcere vi tengono rinchiusi. Ed è altrettanto ovvio che a custodire siffatte persone dovrebbero essere chiamati dei addestrati, dei professionisti in grado di mantenere saldo il controllo dei nervi, e che se ciò non avviene la responsabilità non può che ricadere su chi in tal senso non provvede. Ecco perché le parole di Fassino e Caselli, che in quel delicato settore rivestono la massima responsabilità politica e amministrativa, sono suonate tanto sgradevoli. Accusando implicitamente, pur con tutte le possibili attenuanti, coloro che pretendevano di difendere, miravano soprattutto a difendere se stessi. Se stessi è naturalmente il sistema di cui sono a capo, un sistema in cui gli agenti di custodia non sono notoriamente che l'ultima ruota del carro. E in effetti sono bastati 2 giorni di indagini, per scoprire che il turpe episodio di Sassari, in cui non a caso oltre agli agenti sono coinvolti funzionari di livello molto più alto, non rappresentava un exploit casuale, non era uno stratto di nervi o l'improvvida iniziativa di un gruppo di teste calde casualmente concentrate in una sede disagiata, ma è stato al contrario l'effetto di una politica, la manifestazione di una tendenza che qualcuno vuole e diffonde. Di tutto questo, naturalmente, un ministro appena entrato in carica non ha personale responsabilità. Ma certo, è un peccato. È un peccato che l'onorevole Fassino, con quella presa di posizione, abbia gettato al vento quello che in molti consideravamo invece il suo principale attu per un felice esercizio del ruolo di ministro guardasigilli: l'essere in sostanza un perfetto nuovo venuto, assolutamente estraneo, a differenza del direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla precedente gestione del sistema giudiziario nazionale. Di questa felicissima verginità avrebbe potuto farsi forza e usbergo. Ha preferito non farlo e ha perso così un'ottima occasione per starsene zitto.